Friuli nel mondo. Messaggio dei poeti ai lontani. 23esima trasmissione dedicata agli emigrati. Alla sua storia, non sempre intessuta di pietà religiosa e di lavoro, ora et labora è il motto che più s'addice al luogo, fiorente di vigne e di frutteti, fra cui un tempo impallidiva l'ulivo, Rosazzo può aggiungere una recente pagina serena. L'abbazia, assegnata nel 1751 all'arcivescovado di Udine, in seguito alla divisione del patriarcato di Aquileia, marchese di Rosazzo, il titolo che spetta al presule udinese, eremo degli Agostiniani nel IX secolo, abbazia dei Benedettini dall'undecimo in poi, scuola di umanesimo, ospedale di lebbrosi, ospizio di vecchi, arnese militare nel XVI, per cui ebbe a soffrire due assedi degli Ungheri, l'ultimo nel 1431 con conseguenze crudeli, mozzate le mani ai difensori, abbruciate le case, e l'assedio del Duca di Brunswick nel 1509, ancora cronache di sangue, donne e bambini trucidati, ha accolto a metà maggio una brigata di giovani scrittori. Si tratta degli scrittori di Risultive. Vi sono saliti salutati da un arco all'inizio della strada che tra acace in fiori e pampini verdi si snoda da Dolegnano all'abbazia. Un arco da sagra sopra il quale si leggeva il motto «La poesie non mur», «La poesia non muore». Ne sia conferma il libro che è stato tenuto a battesimo lassù. Poesie e prose friulane, stampate in Friuli, con carta friulana, in pochi esemplari per amatori. Vi figurano 13 nomi, un numero porta fortuna, stretti intorno a Don Giuseppe Marchetti, che per gli amici e per i roncar s'accorsi con i familiari, in prima fila bimbi rosei e sodi come acini d'uva, ha celebrato la messa nella chiesa romanica, rivolgendo al Vangelo, letto in friulano, parole ispirate. Sicuro, il Vangelo letto e volgarizzato in friulano, come usavano nelle nostre campagne sino a pochi anni fa, e in friulano le preghiere. Pari mestri che tu stas in ciel, sei a glorificato il tuo nom, cal vegni el tuo ream, che sei fatta la tua volontà, tanto in ciel che sulla tiare. Mandinus ogni dì il pan che nos covente, perdoninus il mal che vim fat, che no o perdonarin a quei che nos indan fat a no. Nos ta lasanus colà in tentacion, ma liberinus d'ogni mal. Amen. La chiusa della predica, in quell'oasi di mistico raccoglimento, svela la natura del convegno. Visinsi di che biele preiere, plene di fede, rampide e sclette, che adisevin lis nestris avis, e che un di volte se l'ha riportata in tun libri. Signor, sei solaudat, benedit e ringraziat, diduce che nos dais e che nos vesdat, tanto dal ben che dal mal, second la vostra santa volontà. Ma cos'è la Risultive? Acqua fresca e chiara che, nata nel cuore dei monti, nel mistero di una grotta, sotto le radici di un bosco, e torne a cantà tal soreli dopo un edì o milagne. Non la dispersero le cannonate in tempo di guerra, non la prosciugarono i cavalli degli invasori. La Risultive, sinonimo di poesia, e ne sia lode al Signore, non ha abbandonato la terra friulana. Così suona la prefazione mandata innanzi al libro dalla Società Filologica, custode della piccola patria antica e nuova. Convivio dunque nel significato dantesco della parola a Rosazzo. In quell'aereo giardino, infatti, il primo pensiero ai lontani. Partecipi anch'essi alla festa. Ai lontani offerte le composizioni che gli autori stessi ravvivano con la loro voce. Thank you. Isabella Cantarutti da Spirimbergo. Anche voi il Friul al torne di quest quel di Rosacis inquintri come un sium. Il sium che nasut con me, che mi ha accompagnato in tante di tutti i miei anni, che mi lascia quando intorno mi stia fuori in lainte i murs, che torna a chiapami e al simpie des giornate sinclar. Un sium che si è ingropato tra voi di cui chi vuoi più ben, fat chiar e tiar. Riedo Puppo da Cereseto. I cipres aromai fur di plom, metus li di agnorums in daur, attegnin a men si vignai. Li schiampanis di funzion si nicin plan ca plan, e al par che il sun al fasi fature a travanà lumit. Un'eresine di vilut si può e sui frost dei arbe e sul formen. I staipings di Soreal assomè in chiox, poi as intor dai morars, cui bras in buon bas appendolò. Il bosc e gli sculinis non son pui. Paola Baldissera da Gemona. Accrescin siums als chiamas di miluse sul mio prat, color dall'amor dei frus. Affluriscin te arbe cutulutis di fruttis e l'aiara l'odore di freschi e voi di ridi. Aurelio Cantoni da Udine. Il Christ di len te mont casu. Te snioz di sta colin chiator listelis e la matine blancis e bielis listiolin su. Di len te mont casu. Signor, te crosti chiali, e tu sei sbrut, malfat, ma io ti prei, senza di te di bant si va in denant. Tu sei di len, signor, ma sulla mont, talaiar cal svintule, cal vruntule, o tenef che ogni robe sapulis, o tal clap dur e frete slis, tu, domme tu, tuas vos, signor, te cros di len, tu, domme tu, besol, casu.